cari amici di Archeologia Videoludica, ho l'onore di presentare uno short di una serie che vi farà compagnia durante queste vacanze di Natale, sperando che siano molto lunghe per voi come per tutti quanti. Saranno giochi non nuovi, chiaramente, e la mia scelta è caduta su Mean Streets. Mean Streets è nato nel 1989 ed è stato pubblicato dalla Access Software, che è stato anche lo sviluppatore, mentre sua amiga è stato adattato per mano dei The Code Monkeys. Perché Mean Streets? Beh, innanzitutto perché è un grande classico, comunque è stato un gioco, come vedremo, importante per l'epoca, e poi anche perché a breve è atteso, per i primi mesi di questo nuovo anno che si avvicina a quanto pare, un nuovo episodio della sua saga. Mean Streets è il futuro, nel bene e nel male, dentro la storia e fuori dalla storia. Mean Streets non ha nulla a che fare con l'omonimo film, è un concentrato di anni 80, tranne che della cultura videoludica del periodo, dato che la sua ambizione andava ben oltre le consuetudini del tempo. Come la fantascienza dell'epoca tradizionalmente voleva, la Terra è diventata un posto orribile da abitare, soprattutto dopo che la Terza Guerra Mondiale e le conseguenti radiazioni l'hanno devastata, rendendo inabitabili alcune zone, relegando il cielo ad un triste color ruggine. Non solo, purtroppo, buona parte della popolazione ha subito mutazioni considerevoli, dalla fusione degli occhi in uno solo, tipo ciclopi, fino a seconde teste spuntate sulle spalle e così via. Li chiamano Freaks, e non sono certo ben digeriti dalla popolazione normale, al punto che essi si sono ridotti a vivere in una sorta di ghetto in pace tra simili, a meno di qualche mente particolarmente geniale assoldata da questa o quella compagnia. Queste compagnie sono megacorporazioni dallo smisurato potere economico e politico, come la Gideon Enterprise e la sottoposta MTC, apparentemente concentrate su congegni avanzati di sicurezza, ma con un esercito di scienziati tale da legittimare qualche sospetto. È una sera apparentemente come le altre, quella in cui Sylvia Linsky contatta Tex Murphy, un detective molto apprezzato della costa ovest americana. La signorina sta vivendo un momento terribile, suo padre Carl si è appena suicidato e, come se non bastasse, la polizza assicurativa legata alla sua morte risulta invalida in caso di suicidio, impedendo a Sylvia di quantomeno consolarsi col milione di dollari dovuto. Tuttavia, la procace bionda al cospetto di Tex sembra importare prima di tutto la verità. Suo padre non aveva ragioni per togliersi la vita. Guadagnava bene, godeva di un lavoro prestigioso, era anche fidanzato, a quanto pare forse nascondeva addirittura un amante. Il presunto suicidio era probabilmente il frutto di un piano raffinato per sbarazzarsi di lui. Forse conosceva troppo dei suoi datori di lavoro. Anche egli figurava tra gli scienziati al soldo della Gideon. Alla fine, 10.000 dollari dritti nel palmo della mano ed uno sguardo languido e sensuale di Sylvia sono bastati a Tex Murphy per rischiare la pelle in uno degli affari più loschi della sua vita. Come dicevamo, Mean Streets è uscito nell'89 per opera della Access Software e soprattutto di Bruce Kerber, game designer noto dai tempi degli 8-bit e reso celebre da classici della portata di Beachhead, Ride Over Moscow o World Class Leaderboard. Parecchi 64isti avranno rizzato le antenne qui. Creativo ed ambizioso, con Mean Streets voleva semplicemente esagerare, spingendo il genere adventure verso l'impossibile sogno del film interattivo. Con il supporto di bravi grafici e programmatori ha trovato un valido alleato soprattutto in Chris Jones, che oltre a partecipare attivamente alla stesura della sceneggiatura è stato anche il volto del protagonista Tex Murphy. Infatti, una delle peculiarità che avrebbero catapultato Mean Streets in una nuova generazione di esperienza videoludica sarebbe dovuto essere l'estensivo utilizzo di digitalizzazioni grafiche e sonore, con un mix di attori e pupazzi a rappresentare i pittoreschi guitti della storia. Alla base dei prodigi audiovisivi di Mean Streets vi sono addirittura tecnologie brevettate dalla Access. La prima riguarda la scalabilità della grafica. In quanto risultava sconveniente in termini di costi di sviluppo, ridisegnare ogni cosa per i vari standard, perché su PC, come sapevate, c'erano tantissimi tipi di schede grafiche. Per cui, a partire dai 256 colori della VGA, ogni cosa veniva scalata in favore della configurazione hardware presente. Il secondo brevetto concerne l'audio, che sfruttando la pochezza dello speaker d'ordinanza garantisce risultati sorprendenti come frasi campionate ad una musica che si ascolta solo molto sporadicamente, in verità ad alta qualità comunque per il tempo, ma solo per i fortunati possessori di almeno un 286, che all'epoca non era così economico. Lo stato dell'arte della tecnica, insomma, o almeno intenzionalmente tale, e comunque si trattava solo di una metà del piano di coinvolgimento totale del giocatore. Mean Streets ci vuole calare a tutto tondo nella vita dell'investigatore privato, includendo una buona quota anche di tempi morti. Il primo impatto col gioco è agghiacciante, la sensazione di spaesamento totale. Senza alcuna introduzione dettagliata, ci troviamo a bordo di un veicolo, senza la minima idea sul da farsi. Occorre fare un passo indietro e ripescare il manuale. Il prologo è scritto solo lì, e non solo. Il mezzo sul quale ci troviamo è il cosiddetto speeder, una auto volante futuristica che può muoversi seguendo le coordinate. Ed i primissimi luoghi da visitare sono citati solo ed esclusivamente nel manuale. Nient'altro che una protezione creativa e contestualizzata, dato che all'epoca la pirateria era veramente feroce. Tutto sommato una protezione indolore, dato che tali prime locazioni sono di importanza marginale e andranno raramente rivisitate. Non che una volta noti gli indirizzi ci sia subito da divertirsi. Questi posti bisogna raggiungerli, guidando manualmente, ma molto scomodamente. O meglio ancora, sarebbe farlo col pilota automatico. Servono alcuni minuti per spostarsi tra le locazioni e non c'è neppure la possibilità di muoversi altrove per scovare qualcosa di interessante, dato che solo gli edifici relativi alla sceneggiatura hanno una piattaforma di attracco. I movimenti a bordo dello speeder sono un forte deterrente dal giocare, sono veramente, veramente antipatici. La rimanente parte di Mean Streets si divide tra dialoghi, esplorazioni di schermate e sparatorie. Queste ultime sono di una bruttezza inenarrabile e bisognerà fare fuoco da alzati, accovacciarsi per evitare i proiettili e piano piano avanzare. E sono tutte uguali. Sembra davvero di vedere qualche arcade dei primi anni 80, ma fatto veramente malissimo, non sono per niente divertenti. Le locazioni visitabili sono le uniche ad avere il tono classico delle avventure grafiche. Il controllo è totalmente da tastiera, potremo muovere Tex per la stanza, sempre per una locazione di una singola schermata, dopodiché premendo invio otterremo una lista degli oggetti con cui è possibile interagire nei paraggi tramite le sole azioni. In pratica dobbiamo prendere Tex, muoverlo in una zona e premere invio per vedere cosa c'è vicino. Non esiste un inventario, una volta raccolto l'oggetto Tex lo userà al momento opportuno. Generalmente la strutturazione degli enigmi è poco entusiasmante. Per la maggior parte la difficoltà è figlia della scomodità dell'interfaccia e di solito il da farsi è poco ispirato e varia dalla classica ricerca dell'oggetto chiave alla disattivazione dei tanti sistemi di allarme. I dialoghi sono sicuramente la parte più godibile, grazie alla riuscitissima scrittura dei personaggi, caratterizzata bene anche visivamente. Le conversazioni sono per lo più brillanti e dominate da one-liner, nonostante Tex sia in questi casi piuttosto trasparente, ma il loro svolgimento è anche stavolta molto rigido. Per via testuale potremo proporre l'argomento, che sarà il nome di un personaggio o altro, ma la rosa è comunque ristretta. Caso mai facessimo un errore di battitura, la conversazione andrà alla malora, praticamente. Nel caso in cui la chiacchierata sia infruttuosa, potremo decidere di minacciare il soggetto con la violenza oppure di corromperlo. Non a caso in Mean Streets contano parecchio i soldi, che potremo recuperare vendendo oggetti rivenuti nelle varie locazioni. Giocare a Mean Streets oggi non equivale assolutamente a divertirsi nella maniera tradizionalmente intesa. È un videogioco interessante, si gode nell'osservare un mondo futuristico di macchine volanti lente e col pilota automatico imbranato, dove alcuni usano la TV in bianco e nero e i cellulari non esistono. Viaggia tutto col fax, ma comodamente in auto, mentre di qua e di là si fanno riferimenti al presidente degli Stati Uniti, che indovinate chi era? Niente meno che Michael J. Fox. È bello osservare la grafica e pensare a quanto ciò potesse sembrare avveniristico nel 1989, e ci si può divertire per degli esempi di fotoritocco straordinari per quell'anno e solamente tanto teneri oggi, insomma. Sono fantastici alcuni cliché noir e polizieschi presi di peso dalla scuola americana e rivisitati con gustosa ironia. Tex Murphy è un personaggio perfettamente riuscito, fin troppo ovvio che ne avrebbe fatta di strada. Il resto però è veramente noia. Mean Streets è invecchiato tutto, nella parte ludica non c'è nulla che sia sopravvissuto recentemente alla prova del tempo, e l'interfaccia è una tortura in qualunque fase di gioco. La cosa più anacronistica è pensare di dover leggere il manuale per comprendere i controlli di un'avventura grafica, che notoriamente sono tra le cose più intuitive in assoluto. Certe cose si possono godere solo nel momento originale, ed oggi con Mean Streets il piacere può essere solo filologico. Non che sia poco, intendiamoci. Comunque, per chi vorrà provare a giocare questo titolo in forma un po' più moderna, va citato il remake Overseer, uscito qualche anno più tardi e sicuramente più abbordabile. Bene, prima di salutarvi definitivamente per questo short, facciamo qualche saluto riguardo ai commenti che lasciate sulle nostre pagine, insomma. Ne approfitto quindi per salutare in questo mio turno Morgan, che ci ha scritto al riguardo del podcast sul calcio che abbiamo portato avanti con Simone Pizzi. Abbiamo fatto soltanto una puntata e Morgan ci scrive che per quanto odi il calcio ho amato questo episodio, completo, snello, piacevole, mi ha fatto rivivere mille momenti del passato, dal primo pseudo soccer sulle console Pong alle sfide a Soccer Replay, mod del calcio Commodore. Una citazione al mitico Football Manager ci sarebbe stata, ma forse questa è un'altra puntata. Complimenti per la ricerca e per il format a due voci che prediligo in assoluto, come in altre puntate monotematiche. Kittesen Google è esaltante ed in quel frame il distruggitore è perfetto, decisamente più compatibile all'ascolto umano. Sarà contento il distruggitore. E io ti faccio i miei ringraziamenti. Football Manager, guarda, ti posso dire che io sono un grandissimo fan e ci gioco tuttora. Credo di aver accumulato alcune decine di migliaia di ore su questa serie in generale dal tempo del Commodore 64. Quindi sì, magari ci può stare di dedicarci qualcosa. Anche se poi, insomma, diventa un discorso complicato perché di simulazioni manageriali ce ne stanno veramente un'infinità. Grazie Morgan, che mi hanno detto, e poi ho visto che effettivamente così sei uno degli ascoltatori più fedeli di Archeologia Videoludica. Speriamo di averti ancora con noi per le puntate a venire. Bene, a questo punto faccio a tutti gli ascoltatori gli auguri per un felice Natale e per bellissime vacanze. Ci sentiamo ad anno nuovo con nuove puntate di Archeologia Videoludica. Abbiamo già un piano editoriale, ma ovviamente è super segreto. A presto!